Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Rendere le cellule tumorali visibili al sistema immunitario, che riesce così a bloccarne lo sviluppo. Dopo 4 anni di esperimenti, i ricercatori dell'IRCSE di Candiola e dell'Università di Torino ce l'hanno fatta, e il loro studio, pubblicato su Nature, apre una nuova strada nel campo dell'immunoterapia. A Obiettivo Salute il professor Alberto Bardelli, direttore del laboratorio di oncologia molecolare e docente del Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino, che ha presentato lo studio. I tumori cercano sempre di scappare alla nostra migliore difesa, che è il sistema immunitario. È un po' come un bombardiere colorato di nero su un cielo nero, che di notte non si vede, i radar non lo vedono. Quello che ci siamo chiesti è se riuscivamo a rendere questo caccia stealth visibile ai radar, e l'abbiamo fatto con una tecnica genetica che ci consente di modificare i meccanismi con cui le cellule riparano il proprio DNA. Le abbiamo costrette a diventare visibili ai radar e il nostro sistema immunitario le riconosce in questo modo. L'approccio è un po' inconvenzionale, perché al contrario di quello che si è sempre pensato, adesso cerchiamo di causare nelle cellule del cancro più mutazioni per accendere queste lampadine e far sì che il miglior sistema che abbiamo per difendersi le vada a recuperare. Potete ascoltare l'approfondimento sulle pagine del programma. L'allarme arriva dall'FDA americana. Le pistole e le spade laser, i laser che vengono acquistati e utilizzati per creare effetti ottici all'aperto, se adoperati in modo non sicuro o senza precauzioni, possono creare danni molto gravi alla vista. La luce di questi giocattoli, altamente concentrata, può essere pericolosa anche più del guardare direttamente il sole. A Obiettivo Salute il professor Paolo Nucci, direttore della clinica oculistica universitaria all'ospedale San Giuseppe di Milano. L'FDA ci dice sostanzialmente che molti dei laser che sono in commercio non hanno i requisiti di sicurezza. Quali sono questi requisiti di sicurezza? Di muoversi, di agire con un potere inferiore ai 5 milliwatt. In realtà molti di questi laser sono più potenti, anche perché vengono utilizzati per gioco, e bisogna che arrivino molto lontano e che il fascio sia piuttosto potente. Quindi se noi puntiamo questi laser sulla nostra retina possiamo ottenere delle cicatrizzazioni, quindi bisogna stare molto attenti al tipo di laser che viene commercializzato e soprattutto mai puntarlo negli occhi di nessuno. La programmazione di Radio 24 continua come sempre con Melog. Io vi aspetto in diretta video. Oggi parliamo e lavoriamo sulla nostra autostima. L'appuntamento torna domani, sempre a mezzogiorno, quando scocca l'ora della salute. Buona giornata da Nicoletta.